Io me ne stavo qui da 100 anni, da quando sono morto senza fanni. Fumavo una pipa ogni tanto, oppure un bicchierino di vin santo. Poi sono arrivati questi pazzi, ci han fatti diventare paonazzi. Mia moglie più non dorme dal rumore, fan festa senza sosta ore ed ore. La casa abbandonata va bene, però vorrei dormire per bene. Mi pare un poco esagerato, un party così esagitato. Questi ragazzi fatti sono strani, vedo un fantasmi dove non ci siamo. Hanno orecchini un tantino balsani, tatuaggi che ricordano un ricamo. Mangian caramelle malsane, li fan procedere a cammello, oppure saltellare come rane. Non è poi mica tanto bello. La casa abbandonata va bene, però vorrei dormire per bene. Mi pare un poco esagerato, un party così esagitato. Mia moglie non riesce più a prendere il tè, le sue amiche fuggono alle 5:03. Ed anche i Visconti di Montmorency ci han fatto sapere che non vengono più qui. La casa abbandonata va bene, però vorrei dormire per bene. Mi pare un poco esagerato, un party così esagitato. La casa abbandonata va bene, però vorrei dormire per bene. Mi pare un poco esagerato, un party così esagitato. Quasi quasi fra un pochino gli farò boh.